Bismillahir Rahmanir Rahim. Nel nome di Allah, il sommamente misericordioso, il clementissimo. Il testamento spirituale registrato nel presente CD ha la sua forma cartacea nel quaderno islamico numero 36. Esso è stato scritto dal principe dei credenti Ali ibn Abi Talib, che Allah si compiaccia di lui e lo esalti, nella forma di una lettera al figlio primogenito Al-Hasan, che Allah si compiaccia anche di lui. Si tratta di un testo sul quale hanno il dovere di riflettere sia i genitori sia i figli, desiderosi di realizzare al meglio la propria identità islamica. Quanto ai genitori, perché in esso sono segnalate le preoccupazioni che tutti i genitori debbono o dovrebbero avere in relazione al precetto coranico nel quale Allah subhanahu wa ta'ala prescrive a ogni credente di preservare se stesso e la propria famiglia dal fuoco. Quanto ai figli, perché in esso vengono date le direttive che devono essere seguite al fine di non cadere nelle sabbie mobili della vita mondana che, con le sue ingannevoli promesse, facendo perdere all'uomo la consapevolezza del significato escatologico della sua esistenza, lo degrada dalla condizione di creatura privilegiata da Allah subhanahu wa ta'ala nel contesto della creazione alla condizione delle creature che, pur udendo della parola il suono, non ne capiscono il significato. In questo testo sono indicati i valori dell'Islam a cui ogni genitore deve ispirarsi per educare i figli sulla strada che porta non solo al bene in questa vita terrena, ma anche, preservando dal fuoco dell'inferno, al paradiso nella vita futura.